Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Argomento tabù e spesso oggetto di imbarazzo, la toilette pubblica è un luogo in via di estinzione che bisognerebbe invece imparare a rivalutare. A tavola non si può parlarne. In generale, come argomento di conversazione, può provocare imbarazzo, riprovazione o il rischio di un'etichetta freudiana che denota immaturità. La presenza di giovani coppie con neonati può concedere una deroga. Deiezioni e argomenti fisiologici affini sono il nostro ultimo tabù? Ancora oggi, a scrivere merda sui giornali ci si pensa due volte. Tutto ciò rivela l'atteggiamento con cui ci poniamo nei confronti dei nostri escrementi, rifiuti da espellere e repellenti in sé. Anche nella routine. Cerchiamo di evitarli, di rimuoverli e pensare che sono l'impianto portante di innumerevoli numeri comici. C'è chi sul lavoro usa bagni lontani dal proprio ufficio per non farsi riconoscere, chi aspetta che non ci sia nessuno in giro, chi invece rimanda, quando possibile, gli impegni più grossi a casa. Rumore e odore sono gli ostacoli maggiori. L'eliminazione è una questione da affrontare in separata sede e con una certa intimità. La condizione ideale quando si usano i bagni comuni, al netto di un certo esibizionismo, è quella di non essere visti. Monica Bonvicini, artista italiana trapiantata a Berlino, è partita da questa esigenza per ideare un WC pubblico che è anche un'opera d'arte. Don't Miss a Sec, installato durante Art Basel 2004, è un cubo di specchi che racchiude una tazza e un lavabo in acciaio. Da dentro si può vedere fuori, ma non il contrario. Un principio simile è alla base del lavoro del 2008 del designer Olivier Rambert. La sua Transparent Toilet, installata a Losanna, ha le pareti in Smart Glass, un vetro che, se stimolato da una scossa elettrica, diventa opaco. L'intimità è tuttavia un valore a doppio taglio. Può essere anche lo schermo dietro al quale si nascondono attività conturbanti e illecite. Sesso e droga, tradizionalmente. Le toilette americane, con le porte aperte sotto, mostrano tutta la tensione che c'è tra privacy e un puritanesimo che impone sorveglianza e separazione. Il bagno deve essere tempio di ordine e silenzio, un luogo di servizio, discreto, invisibile quasi. Così tanto da scomparire del tutto? Tra il 1999 e il 2006 il numero delle toilette pubbliche di Londra è diminuito del 40%, chiuse per motivi di sicurezza. In Inghilterra non si trovano cessi, sono costretto ad andare al bagno da McDonald's, sostiene Jack Sim, fondatore della World Toilet Organization, associazione non profit che ha l'obiettivo di migliorare le condizioni sanitarie nel mondo. A New York uso gli Starbucks, gli fa eco il sociologo Harvey Moloch della New York University, un cortocircuito evidente tra pubblico e privato. Per Moloch la forma dei cessi è lo specchio della società. Nel libro che uscirà a novembre per la New York University Press, Toilet, The Public Restrooms and the Politics of Sharing, il professore argomenta la sua tesi per cui i bagni pubblici intelligenti innalzano la qualità della vita. Harvey sostiene che i più grandi architetti funzionalisti si sono dimenticati della toilette perché l'efficienza razionalista impone di non abusare dei bagni, utilizzandoli cioè per fare ciò per cui non sono stati pensati: leggere, piangere, masturbarsi, fumare. La solitudine del progettista di WC pubblici trova conferma nell'esperienza di Giulio Iacchetti. Il designer italiano, appena presentato al Salone del Mobile di Milano, all'interno della serie di sanitari Olivia per Globo, un orinatoio. Ho voluto restituire dignità a un pezzo collaterale mai protagonista, spiega. Al di fuori della famosa opera di Duchamp non esistono archetipi. Mi sono confrontato con un tema poco gettonato dal design industriale, ma di massima fruizione e attualità. L'orinatoio permette di risparmiare acqua ed è un oggetto bello, scultoreo. Al Salone ha destato grande interesse, è un progetto che avrà un seguito. Finora, i progressi maggiori nel miglioramento dei servizi igienici nei paesi industrializzati sembrano soprattutto estetici. Il libro del 2005 di Cristina Del Valle Schuster, Designing Public Toilets, raccoglie i migliori esempi che elevano il bagno pubblico a un'esperienza per i sensi impregnata di un alto valore artistico. Fate un giro alla Central Library di Rotterdam, al ristorante del Centre Pompidou di Parigi, al Cine City di Trieste o al quartier generale della Nissan a Tokyo per averne un assaggio. Secondo Harvey Moloch, la progettazione delle toilette ha tuttavia bisogno di essere ripensata anche nella struttura, a partire dall'idea che, come dicono gli americani, il WC non deve essere vittima di nessuna rimozione, linguistica, progettuale o sociale, come sostiene anche Rose George nel libro appena uscito in Italia per Bompiani, Il grande bisogno, perché non dobbiamo sottovalutare l'ultimo tabù, la nostra K, asterisco asterisco, A. Le prime a dover cadere sono le convenzioni sociali, sostiene Moloch, a cominciare dalla discriminante divisione tra maschi e femmine. Perché c'è sempre la fila di fronte ai bagni femminili? Perché a parità di WC gli uomini hanno spesso a disposizione anche una parete di urinatoi. Inoltre i maschi sono anatomicamente incoraggiati a utilizzare gli spazi pubblici per gestire la vescica, cosa impossibile per il gentil sesso. Per avere le stesse opportunità degli uomini, le donne hanno bisogno di più spazio, incalza Jack Sim. Fa parte della loro biologia e della nostra struttura sociale, visto che spesso una mamma porta con sé anche i figli, conclude Harvey. Nei negozi di IKEA, colosso per natura attento alla famiglia, la dimensione dei bagni e il numero di WC dedicati a maschi e femmine variano. Le donne rappresentano oltre il 60% dei visitatori, spiegano dall'azienda, e poi trascorrono più tempo in bagno. Diverse caratteristiche generano esigenze diverse, predicano da anni gli studi di genere. La forma dei bagni, ribadisce Moloch, è una questione di giustizia sociale. È in fondo la stessa idea degli Apple Store. Se sei in un ambiente accogliente, forse eviti di diventare un terrorista. Anche la diffusione delle toilette a pagamento pone un problema di diseguaglianza. Perché un'anziana signora dovrebbe pagare di più, continua Moloch, solo perché ha la vescica poco compiacente? Privatizzare lo spazio urbano dei bagni significa renderli un lusso, quindi non accessibili a tutti. Eppure la necessità di un WC è qualcosa che ci rende tutti uguali. È la nostra anima primitiva che emerge, anche se non la vogliamo vedere. Tiriamo l'acqua prima di renderci conto di quel che è un nostro prodotto. In fondo, pensandoci, non ci resta che diventare consapevoli della nostra cacca. Dopo esserlo diventati dell'ambiente, del cibo, degli abiti, è esattamente in questa direzione che si colloca la Compost Toilet, un WC che permette di raccogliere le deiezioni e di trasformarle in concime organico tramite la decomposizione aerobica, un principio primordiale. Commercializzato in Svezia a partire dagli anni 60, è un sistema che non ha bisogno di molta acqua, ma solo di un po' di pazienza. Non demanda ad altri lo smaltimento dei residui privati, ma li lascia alla responsabilità personale. Soluzione impraticabile nelle città? Rivoluzione del futuro? Suggestione per pochi invasati? L'unica certezza, quando nascerà ufficialmente il movimento di slow shit, è la faccia delle nostre nonne contadine, che diranno: oh no, di nuovo? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sara Deganello, Lunga vita alla toilette pubblica, dal numero 20, maggio 2010, del mensile IL, Intelligence in Lifestyle. Mentre nel mondo si moltiplicano le iniziative per chiedere la liberazione di Birtukan Mideksa, la leader dell'opposizione etiope in carcere da diversi anni per aver denunciato i brogli messi in atto dal primo ministro Zenawi, in Etiopia ci sono donne che cominciano a mostrare insofferenza verso i metodi repressivi della polizia religiosa e iniziano a ribellarsi. Se qualcuno facesse un sondaggio tra i sauditi chiedendo chi odiate di più, è probabile che a vincerlo, almeno nelle città, sarebbe la polizia religiosa, ovvero la Commissione per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, nota come Haya, Commissione, o Mutawain, volontari, anche se molti suoi accoliti tali non sono. Un piccolo esercito di fanatici wahhabiti in lotta continua contro promiscuità, omosessuali o veli inadeguati, mal sopportati soprattutto dalle donne, che sempre più spesso però reagiscono. Gli ultimi due episodi sono un segnale evidente. Nella città di Mubarraz, una coppia di ventenni è stata avvicinata in un Luna Park da un mutavva, che ha loro chiesto i documenti, sospettando che non fossero sposati o parenti. Normale routine in Arabia. Nei pochi luoghi pubblici si vedono spesso controlli o fughe di coppie clandestine all'avvicinarsi delle pattuglie antivizio, gli uomini barbuti e in sandali, le donne tutte in nero, guanti compresi. Ma questa volta, scrive il quotidiano Okaz, è stato diverso. Il ragazzo, terrorizzato, è svenuto. L'amica ha preso a pugni e calci il guardiano, spedendolo in ospedale. Okatz non fornisce altri dettagli, ma precisa che l'arrabbiatissima saudita rischia grosso. Anni di carcere e varie frustate per aggressione a pubblico ufficiale. Nel centro del paese, più puritano, una sorella si è spinta oltre. Quando un'auto di Mutavain si è avvicinata a lei e al suo compagno, la donna ha estratto una pistola e ha sparato, in aria. «L'ha fatto per permettere all'uomo di scappare», ha spiegato Sheikh Al-Nabet, portavoce della Haya, senza dire che fine avesse fatto la signora. «La gente non ne può più di questi fanatici che ora pagano il prezzo per averci umiliato per anni», commenta una nota femminista, Vaiha Huvaidar. «Questo è solo l'inizio, ci sarà più resistenza». In realtà l'ostilità al Haya è diffusa, anche per i delitti da questa compiuti. Il più grave nel 2002 fu la morte di 14 ragazze nell'incendio di una scuola alla Mecca. I Mutavain avevano loro impedito di uscire dall'edificio perché non coperte adeguatamente. Dal 2006, per volere del re, i poteri della polizia religiosa sono stati limitati, i capi più oltranzisti rimossi. Ma come sempre in Arabia il problema è soprattutto sociale. Molti sauditi difendono la tradizione. E non sorprenda l'appello rivolto da 1600 donne al re a favore del divieto di promiscuità tra sessi. La Haya, così, continua ad agire. Due giorni fa ha annunciato l'arresto di 10 ragazze emo, post-punk, ad Ammam. Vestite di nero come ogni saudita, ma con frange sugli occhi, make-up scuri e pantaloni. Assolutamente haram, proibitissimi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Cecilia Zecchinelli, Le botte delle saudite ai poliziotti antivizio, dal Corriere della Sera del 24 maggio. Letture di Radio 24. Una recente sentenza di risarcimento per i danni provocati dal botulino potrebbe rappresentare una svolta per le sempre più numerose donne che non si rassegnano ad invecchiare. 15 milioni di dollari per risarcire i danni da botulino. Vista annebbiata, difficoltà respiratorie, anni di continui dolori alle braccia, alle mani e ai piedi, fino alla perdita del lavoro. Un'ostetrica e ginecologa dell'Oklahoma voleva spianarsi la fronte e si è ritrovata bella liscia, lucida e avvelenata dal Botox. La giuria le ha dato ragione. Il foglietto illustrativo della pozione ringiovanente non mette in guardia da questi effetti collaterali e nemmeno dalla mostrificazione estetica. È la prima volta che succede, aprirà probabilmente la strada ad altri risarcimenti, ma le signore convinte che per restare radiose ventenni bisogna ricorrere alla paralisi facciale, continueranno a iniettarsi il botulino anche da sole, e non solo sul viso, fronte, zampe di gallina, labbro superiore, lati della bocca. Va di moda sotto le ascelle, sotto i piedi per evitare la volgarità di sudare, con gli occhi sempre più spalancati dai ritocchi, ma sempre più chiusi sui rischi per il corpo e per il cervello. La ragazza inglese di 16 anni, a cui la madre, diplomata estetista e completamente modificata dalle plastiche e dai lifting, fa punture di Botox sulla fronte per cancellare le linee di espressione, ha detto, con la faccia vagamente immobilizzata nella contentezza, «Il teen toxing fa parte della vita di questi tempi e io lo condivido con la mia mammina». Probabilmente i danni cerebrali sono anche questo. Essere bella come Nicole Kidman o giovane come una liceale, guardarsi allo specchio e trovare di avere bisogno assoluto di una giustatina e poi di un'altra e di un'altra ancora, fino a che ogni festival del cinema, ogni uscita da scuola e ogni serata mondana saranno affollate da identiche facce gommose, continuamente stupite, forzatamente contente. Genere ridi pagliaccio, ma non si parla più ormai soltanto di signore, anche gli uomini hanno detto «vieni avanti botulino». Le donne hanno una soglia altissima del dolore, se no non esisterebbero orde di signore che si lanciano entusiaste e paganti sopra il lettino di un chirurgo per farsi aprire il seno e riempirlo di silicone. Le infermiere raccontano scene hard di capezzoli vaganti in attesa di essere ricuciti. Per farsi tagliare il fondoschiena e infilarci fili d'acciaio a scopo sollevamento, farsi mettere una retina attorno allo stomaco per evitare di riempirlo troppo. Quindi non si lasceranno intimorire da problemini alla vista, molte dormono già da anni a occhi aperti, o sofferenze disumane dopo qualche iniezione di botulino. I risarcimenti ottenuti verranno investiti nelle nuove frontiere del ritocco, rincorrendo con coraggio la perfezione, cioè il modello trans stupefatto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Annalena Benini, Vieni avanti botulino, dal Foglio del 14 maggio. A Arriva anche in Italia un libro che negli Stati Uniti è diventato ormai un classico della cultura del management. Si intitola Tra il dire e il fare e gli autori sono due docenti universitari, Jeffrey Pfeffer e Robert Sutton. Quest'ultimo è noto al pubblico italiano per due bestseller più recenti, Il metodo antistronzi, un manuale per creare un ambiente di lavoro più civile, e Testa di capo, una sorta di vademecum per il comportamento sul lavoro. Nel suo primo libro, pubblicato nel 2000, Sutton esamina invece gli ostacoli che nell'ambito lavorativo impediscono di trasformare le nostre conoscenze in azione, e uno di questi è, secondo l'autore, la paura. In moltissime delle aziende che non sono riuscite a tradurre in prassi le loro conoscenze, abbiamo osservato un'atmosfera diffusa di timore e di mancanza di fiducia. Ci sono ancora molte persone, tra cui parecchi analisti finanziari e giornalisti economici, che ammirano i manager tosti, duri, addirittura cattivi. Noi non abbiamo mai incontrato nessuno che desideri veramente lavorare per persone così. Ma gli articoli che Fortune realizza di tanto in tanto sui capi più tosti inducono a pensare che sia ancora diffusa la convinzione che quando il capo si fa temere o non ispira fiducia perché ha un carattere saturnino e imprevedibile, è segno che sta facendo un buon lavoro. Paura e mancanza di fiducia verso la dirigenza sono tuttora un problema in molti luoghi di lavoro. Ci sono molte più chiacchiere che fatti sul ricorso a tecniche gestionali illuminate e umane. Angoscia e sfiducia danneggiano la performance gestionale e più specificamente la capacità di tradurre la teoria in pratica. L'ansia contribuisce a creare un divario tra conoscenze e azione, perché per poter agire in base alle proprie conoscenze occorre essere sicuri che questo non comporti il pericolo di essere puniti e che anzi chi si assume dei rischi per mettere in atto informazioni e idee nuove sarà premiato, non punito. Una persona che teme per il proprio posto, per il proprio futuro o anche solo per la propria autostima, difficilmente si sentirà tanto sicura da poter deviare rispetto a quel che ha sempre fatto in passato. La paura induce a ripetere gli errori già fatti e a ricreare falsi problemi, anche quando già si conoscono metodi nuovi. Può sembrare ovvio che ansia e sfiducia non soltanto siano diffuse in troppi ambienti di lavoro, ma anche che questi sentimenti negativi siano controproducenti. Ancora una volta, tuttavia, bisogna dire che incontriamo spesso manager scettici al riguardo. Dopotutto, dicono, se un po' di paranoia, un po' di pressione, un po' di timore sono cosa buona e giusta, magari averne un po' di più è anche meglio. Ridimensionarsi, mettendo a repentaglio i posti di lavoro, dovrebbe farli stare al loro posto e impedire che si trascuri il lavoro. Sembra dunque esistere una tacita teoria motivazionale secondo cui senza un po' di pressione la gente se la prenderebbe comoda, senza combinare granché. E siccome c'è un mondo competitivo là fuori, non ci si può permettere di essere compiacenti. Ci sono anche importanti modelli economici di incentivi aziendali, secondo cui la paura di essere licenziati garantisce un impegno diligente e costante, anche se tale affermazione non è corroborata da alcuna prova. Un approccio alla gestione aziendale basato sull'intimidazione presuppone che se i dipendenti non sono tenuti sotto pressione e non vivono nel timore per il proprio futuro, non lavoreranno con diligenza, semplicemente perché desiderano che l'azienda abbia una buona produttività, per aiutarsi a vicenda nei gruppi di lavoro o perché il lavoro che fanno è interessante e piacevole di per sé. Molti sistemi gestionali presumono inoltre che non ci si possa fidare del personale e che controllare la rispondenza delle esigenze aziendali e punire le violazioni siano fattori essenziali per mantenere il controllo dell'impresa. Questi approcci gestionali e motivazionali sono tanto diffusi da aver assunto una caratteristica di scontatezza, sebbene le prove della loro validità siano incredibilmente scarse, e sia stato invece dimostrato in modo ben più convincente che il controllo e le punizioni incidono negativamente sulla performance. Un approccio manageriale basato sulla paura o su sanzioni disciplinari riscuote anche una certa approvazione sociale. La stampa economica subisce spesso l'attrazione dei manager cattivi, tosti, che incutono timore. La paura inibisce la capacità di trasformare le conoscenze in prassi, perché ciascuno ha un tale timore dei capi da fare tutto quel che può per evitare di essere la persona scelta per comunicare cattive notizie, anche quando non ne è in alcun modo responsabile. Gli psicologi hanno identificato quello che chiamano l'effetto MUM, ovvero il fatto che la gente fa di tutto per prendere le distanze dalle cattive notizie. Nessuno vuole comunicare notizie negative agli altri, perché tutti temono di esserne incolpati per associazione. Timore che numerosi esperimenti psicologici hanno dimostrato essere perfettamente fondato. Se i manager non incoraggiano attivamente la rivelazione delle cattive notizie, l'effetto MUM fa sì che tutti, attorno a loro, evitino di portare alla luce le informazioni negative, anche quando tali informazioni sono essenziali per trasformare in prassi ciò che si conosce. Lo stesso effetto si trattiene dall'avanzare proposte di miglioramento, se farlo per primi significa sottintendere che c'è qualcosa che non funziona. Chi è intimorito dal proprio capo fa di peggio che nascondere le cattive notizie per evitare associazioni sgradite. Ha degli incentivi considerevoli per mentire sul reale andamento degli affari. La paura creata dai dirigenti che pretendono risultati, quale che sia la situazione, porta non solo a falsificare le informazioni, ma anche a evitare di apprendere e a maggior ragione di applicare le conoscenze apprese per migliorare l'operatività. Un altro problema è che questo genere di timore porta a concentrarsi sul singolo anziché sul collettivo. C'è una vecchia storiella sulla tigre che insegue due uomini. Per cavarsela non è necessario essere velocissimi, basta essere il più veloce dei due. Analogamente, nelle aziende in cui si ha paura di essere accusati di problemi a breve scadenza, la gente si concentra sull'autoconservazione personale anziché sul bene comune. In molte aziende la filosofia gestionale si può sintetizzare con «la gente lavora più sodo quando cerca di evitare le punizioni». Evitare le punizioni per sé significa però trovare il modo di incolpare e far punire gli altri. In un ambiente di questo tipo i dipendenti non hanno motivo di lavorare insieme per il bene comune e hanno invece un sacco di ragioni per sminuire il lavoro e la reputazione dei propri pari. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Robert Sutton e Jeffrey Pfeffer, Tra il dire e il fare, come superare gli ostacoli che impediscono di trasformare le nostre conoscenze in azioni concrete. Elliott Editore, 352 pagine, €19,50.